Bene, allora siamo qui di nuovo nei nostri consueti appuntamenti del martedì sera presso la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, che questa sera ha il piacere di ospitare due signore, Elke Dollinger e Jasmine Pilloni, che ci porteranno in un mondo un po' diverso rispetto a quello a cui siamo abituati a trattare nelle nostre serate, che coincide con la vista ma anche con la grafologia. Ci interessava molto, non solo perché anche a Bolzano c'è una tradizione particolare per quanto riguarda la grafologia e prima ne parlavamo insieme, ma anche perché abbiamo visto che oggi come oggi ci sono delle abilità che sono ormai andate sparendo e tante persone non sono più in grado di scrivere correttamente. Questo poi ha delle implicazioni non solo sulla postura, ma anche sulla vista e su altri aspetti neurologici e fisiologici che io adesso non illustrerò, ma che mi è stato detto e che troveremo poi anche ampiamente illustrato nei libri che vediamo su questo tavolo. E quindi è un'ulteriore occasione, una nuova occasione per riflettere e per soprattutto leggere, anche informarsi su questi aspetti. Pensavo anche che un'altra delle abilità che stiamo andando per, che stiamo perdendo è quella della lettura e soprattutto della lettura ad alta voce. Ci sono persone che non sono più in grado di leggere e che fanno fatica ad articolare le parole, sembra impossibile, ma è così. Quindi una lettura mentale magari veloce o anche distratta, qualcuno riesce ad affrontarla. Mentre la lettura ad alta voce diventa un problema. Forse abbiamo bisogno di recuperare insomma qualche abilità, ecco, che sono state sopperite insomma da altre abilità sicuramente digitali, ma quelle diciamo originali che abbiamo imparato noi all'elementare, alle medie, non vengono più valorizzate e soprattutto le stiamo perdendo. Lascio la parola alle nostre ospiti, alla dottoressa Dollinger e poi alla dottoressa Pilloni. I nostri relatori noi li chiamiamo sempre dottori, ecco, okay. Così. No, non si preoccupi, non si preoccupi. Comunque siete persone con un'esperienza, vedo che anche qui la vista, 10 decimi, c'è, cioè, è la visione che manca. Ecco, il libro. Esatto, un altro libro, abbiamo detto due libri, uno è quello di questa sera che abbiamo appena citato e poi c'è l'anteprima, diciamo, del libro di Margherita Zerbi, sì. Bene, allora lascio la parola alle nostre ospiti, vi invitiamo tutti a seguire la nostra conferenza che sarà sicuramente molto interessante. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera, buonasera a tutti, io sono Elke Dollinger e sono un'ottica optometrista. E sono qua perché ho collaborato 30 anni con la Margherita Zerbi, una grafologa di Bolzano, che purtroppo stasera non può esserci. La signora Margherita Zerbi ha 97 anni e comunque ancora molto attiva e ha pubblicato con me questo libro l'anno scorso, nel 24, e in questo mese lei ha pubblicato di nuovo il suo manuale di grafologia. Per cui è comunque una persona, anche se la vista e l'udito non sono più dei migliori, lei ancora con la testa c'è molto e vuole fare ancora molta prevenzione, come lei dice. E per cui dopo 30 anni che abbiamo collaborato insieme, abbiamo avuto l'idea di stampare, o meglio ristampare, questo libretto che è stato già stampato una volta nel 2002. Allora, andiamo un po' nel mio mestiere. Per noi c'è una grande differenza tra vista e visione, e questo è quello che oggi vi vorrei spiegare. La vista è quella che noi sentiamo spesso, è quella famosa dei 10 decimi, quella che viene controllato sia nei bambini quando cominciano ad andare all'asilo, poi all'inizio scuola, poi di solito viene più controllato finché andiamo alla patente, se non abbiamo qualche difficoltà. Comunque è la classica tabella dei 10 decimi. Decimi e diotrie, qual è la differenza? La gente pensa sempre che sono due cose identiche, cioè che vanno in corrispondenza, invece sono due cose ben diverse. 10 decimi è questa tabella che voi vedete lì a lato, che viene posizionata a una certa distanza ed è calcolata di solito per i 3 o 6 metri, e ai 3 o 6 metri si deve riuscire a identificare delle lettere, cioè vederle la differenza, e per cui si ha una certa vista, cioè di 10 decimi, di 2 decimi, di 3 decimi, eccetera. Se non si arriva ai famosi 10 decimi, vuol dire che ho un difetto visivo, e se sono fortunato con un occhiale posso rimediare e riesco di nuovo a tornare ai 10 decimi. Le diottrie sono poi quelle che troviamo nell'occhiale, però non sono corrispondenti, cioè una diottria nell'occhiale non corrisponde a non vedere una riga dei 10 decimi. Ci sono persone che possono anche con una diottria ancora vedere bene ancora 9 decimi, 10 decimi scarsi. E ci sono persone che hanno due diottrie nell'occhiale e non riescono già a non vedere due decimi, che fanno molto fatica. Per cui queste due misure non sono corrispondenti. Quali sono i difetti della vista che non ci fanno vedere i 10 decimi? Sono uno la miopia, la ipermetropia, l'astigmatismo, e dopo i 40 anni ci tocca a tutti, c'è la presbiopia, cioè quando si arriva a una certa età il cristallino non lavora più e diventiamo tutti presbiti. Guardiamoci un attimo le differenze tra i diversi difetti visivi. Allora, ecco come vede da lontano un occhio miope. Nell'occhio miope è così che i raggi vengono dentro nell'occhio e invece di andare a fuoco sulla retina vanno a fuoco un po' prima. Quello ci fa vedere, se guardiamo adesso questo binario, vedere da vicino bene, un miope da vicino funziona benissimo, e più lontano sono le cose, meno bene li vede. Per poter correggere una miopia, si ha di solito un occhiale sempre negativo, un meno 1, meno 2, viene corretto con una lente negativa o una lente a contatto negativa. L'ipermetropia è l'opposto. L'ipermetrope, praticamente i raggi vengono dentro nell'occhio, invece di andare a fuoco sulla retina, vanno a fuoco dopo la retina. E l'ipermetrope non vede bene da vicino, ma vede meglio da lontano. Poi dipende dalla gravità dell'ipermetropia, anche lontano potrebbe non essere più così a fuoco, però di solito l'ipermetrope vede meglio da lontano invece del vicino. Per correggere un'ipermetropia abbiamo bisogno di una lente positiva. Invece l'astigmatismo vuol dire che l'occhio, che teoricamente dovrebbe anatomicamente essere una bella sfera, non è proprio sferico, ma è un po' ovalizzato, e per cui di un'immagine diventano due e praticamente distorgono l'immagine, come si vede qua, delle lettere vengono un po' distorte, e quello si corregge poi con una lente che si chiama un cilindro. E il cilindro poi ha anche un asse, perché l'occhio non è sferico, ma è ovalizzato, e per cui devo sistemare questa asse e posiziono il cilindro a un certo asse. Per cui in una ricetta, se vi ricordate, c'è scritto sfero meno 1, astigmatismo, cilindro meno 2, asse 180, 90, dipende dove è l'asse. La presbiopia, come ho detto già prima, ci tocca a tutti, perché il cristallino, dopo un'età di 40-45 anni, chi prima chi dopo, non lavora più come dovrebbe, e il cristallino nel nostro occhio è responsabile per farci vedere da vicino. Cioè quando siamo giovani e non ce ne rendiamo conto, ma lo lavora con di continuo, cioè quando guardiamo lontano il cristallino non si ingrossisce ma rimane piatto e vediamo a fuoco, quando vediamo invece una cosa da vicino si deve ingrandire, ingrossire per farci vedere a fuoco. È un processo che succede in pochissimi millisecondi, però dopo una certa età diventa sempre più difficile, e quello che succede è che la gente comincia a allontanare gli oggetti per vederli a fuoco, e quando la mano, cioè il braccio diventa troppo corto, di solito arriva il primo occhiale da lettura, perché dopo un po' troppo lontano non si può. Ecco, invece la visione è una cosa molto più complessa. La visione è insieme delle abilità che ci permettono alla persona di operare, di integrare col mondo esterno. Ma non solo. La visione è il processo che dà un significato a ciò che si vede. Per cui non è solo vedere questi 10 decimi. E ve lo voglio dimostrare. Allora, questo è un disegno, non so se l'avete già visto, è un oggetto che voi avete già visto tutti, è molto familiare. C'è qualcuno che riconosce quello che c'è sulla figura? Qualche altra idea? No. Allora, questo adesso è un processo di imparare una visione. La mucca era giusta. Adesso ve la faccio vedere a tutti. Ok? Adesso ritorniamo al disegno di prima e penso che adesso tutti vedete la mucca. Però nessuno, cioè adesso diventerà molto difficile rivedere quello che aveste visto prima, cioè vedere le macchie bianco e nere senza significato, cioè tirarne fuori un significato. Questo era un processo di apprendimento di visione. E questa foto, se adesso vi ricapita in mano fra 10 anni, vi ricordate, cioè lo vedete subito la mucca, non c'è bisogno di pensare cosa potrebbe essere, cioè è una cosa che rimane in memoria. La visione, quando funziona, è il senso che domina tutti gli altri sensi. Ovviamente se non funziona bene, altri sensi devono prendere il suo posto. Però l'apprendimento che abbiamo da bambini arriva all'80% avviene dalla visione. Oltre 1 milione di fibre nervose per occhio abbiamo, 70% di tutte le fibre nervose sensoriali del corpo sono da parte della visione. Gli occhi è solo un organo di tutto il corpo ad essere innervato sia dal sistema nervoso simpatico che dal sistema nervoso parasimpatico, per cui dal sistema autonomo volontario. La mia professione, cos'è l'ottico optometrista? L'ottico optometrista è quello che determina, per esempio, la soluzione come occhiali o lenti a contatto o lenti di ingrandimento, per portare la persona di nuovo a una buona visione, non solo una buona vista. Il medico oculista invece si occupa sia della vista, ma soprattutto delle malattie dell'occhio. E se quando collaboriamo bene insieme riusciamo a aiutare a tanta gente. La postura fa parte della visione, come abbiamo detto prima, la postura per la penna, la postura quando si scrive. La postura è una risposta dell'organismo umano alla forza di gravità per mantenere l'equilibrio sia in posizione statica che in dinamica. E la visione ne fa una bella parte di questo equilibrio che abbiamo, perché se quando ci mettiamo in piedi o già quando il bambino gattona, la visione ha una componente molto importante. Come ho detto, questa la visione in questo equilibrio copre un ruolo molto fondamentale. Per provare questa cosa possiamo fare un esercizio insieme, se vi piace vi alziamo tutti in piedi e mettiamo un piede davanti all'altro, cioè tacco punta, no, davanti proprio, ok? E se siamo con gli occhi aperti, penso che tutti stiamo bene in piedi, ok? Attenzione, se provate a chiudere gli occhi, la cosa diventerà molto difficile. E alla fine cos'è che togliamo? Il senso della visione. E l'equilibrio viene a mancare a tanti, perché non abbiamo più da aggrapparci visivamente a delle cose, ok? Allora, la luce viene all'interno dell'occhio e arriva all'interno dell'occhio tramite i movimenti oculari che cercano quell'oggetto, quella cosa che noi ci interessa. No? Se pensiamo a un bambino piccolo che vede un oggetto nuovo, lo vede, con la motricità arriva lì con gli occhi, poi cerca di raggiungerlo anche col corpo. Però sono gli occhi primi a puntare l'oggetto. Poi abbiamo l'accomodazione, che abbiamo già parlato, è quel cristallino dentro nell'occhio che ci aiuta a vedere a fuoco da vicino o da lontano, e la convergenza, cioè la messa insieme dei due occhi a puntare un oggetto insieme. E alla fine è il cervello che sviluppa queste cose che abbiamo mandato dentro con la luce. Cioè, se non ci fosse il cervello a sviluppare le nostre foto, non potremmo avere una visione. Cioè, l'occhio è solo quello che apprende, ma non ci fa vedere come noi pensiamo di senza cervello. Allora, i bambini, tutti i bambini nascono ipermetropi, normalmente, e l'ipermetropia si assorbe negli primi anni di vita. Infatti, se vedete, nel 2003 ancora si pensava che nel primo mese di vita si vedeva non un decimo, ma un ventesimo, cioè pochissimo. E poi, col passare dei mesi, il bambino vede sempre meglio. Oggi, nel 25, si sa che i 10 decimi non vengono raggiunti a 3-4 anni, ma vengono già raggiunti tra i 6 e un anno. Ok? Quello che manca anche quando il bambino nasce è la capacità di interpretare colori o anche la messa a fuoco tra il lontano e il vicino, perché è ipermetrope, per cui vede bene, vede sfocato le cose che stanno da vicino e vedrebbe meglio che cose che stanno lontano, ma sono fuori spesso dal loro campo visivo. La visione comunque si sviluppa negli anni con le cose che il bambino fa, con tutte le sue attività, si sviluppa sempre di più, e solo dai 6 anni in poi si dice che la maturazione visiva è completata. E se si pensa, i bambini spesso lì cominciano già ad andare a scuola e spesso ancora non sono con la visione ben sviluppati, cioè non hanno tutti i processi ben sviluppati. E la visione anche nei bambini viene utilizzata a diverse distanze. La distanza per lontano, che per noi è dopo i 2-3 metri, una distanza intermedia, che sono i computer, che adesso è un mondo molto importante, sempre più importante, e la distanza da vicino. E tutte devono funzionare e integrarsi bene tra di loro. E un bambino, quando arriva a scuola, a fare le diverse attività che deve fare, cioè non è solo imparare a leggere o scrivere, cioè per noi adulti sembra un processo unico, ma sono più cose insieme. Deve imparare a tenere bene la penna, posizionarsi bene sul foglio, collegare il movimento della mano con una informazione del cervello, del disegno che deve fare. Sono tanti processi che devono essere collegati e tutte le abilità che servono per fare questo devono funzionare. Se una delle abilità, come per esempio nella parte del mio lavoro, gli occhi non si muovono bene sul foglio, diventerà difficile una lettura liscia e buona, insomma. E la posizione del corpo nella scrittura, nella lettura, fa una grande differenza. Perché se io sto a una posizione giusta, che per noi sono 40 centimetri, cioè dico sempre a livello dell'ombelico circa, o comunque la lunghezza del mio avambraccio, io necessito di una certa quantità di accomodazione, di cui ne abbiamo parlato prima, cioè la messa a fuoco del mio cristallino ha bisogno a 40 centimetri di 2,5 di accomodazione. Se invece è la convergenza, cioè gli occhi che convergono, hanno bisogno di 15 dioptrie prismatiche, che sono segnate qua. Sicuramente a voi questi numeri non dico niente, però come dice o fa vedere bene questo disegno, più ci avviciniamo a 25 centimetri, richiede già il doppio di questi numeri, cioè abbiamo bisogno di 5 dioptrie di accomodazione e ne abbiamo 30 di dioptrie prismatiche. E spesso dei bambini non hanno queste riserve o queste capacità. Per cui, se stanno a 25 centimetri, gli occhi fanno una gran fatica e non riusciranno a fare quello che devono fare. E la soluzione poi è spesso di avvicinarmi ancora di più, perché allora non sono capace di sicuro di riuscire a tenere i due occhi insieme. Un occhio se ne va, cioè sta per conto suo, e lavoro con un occhio solo. Per cui non ho più il disturbo della collaborazione dei due occhi, che invece è una cosa naturale e sarebbe anche utile avere due occhi che funzionano insieme. Per cui le abilità visive sono sì vedere i 10 decimi, di cui abbiamo parlato all'inizio, però vuol dire anche muovere bene gli occhi, poterli allineare, mettere a fuoco a varie distanze, la flessibilità, la visione periferica, è molto importante, lì vi posso dare un consiglio: non guardate la TV con la luce spenta, perché se non abbiamo una buona visione periferica non riusciamo a avere la concentrazione per lungo tempo. Infatti le persone di solito che guardano la TV con la luce spenta si addormentano molto presto. Se quello è lo scopo, allora funziona benissimo. Se invece si vuole finire a vedere un film, è meglio lasciare una piccola luce nella stanza accesa, che mi dà anche la visione delle cose intorno alla TV, cioè una visione periferica. Allora io riesco a concentrarmi molto più a lungo. E la visione stereoscopica, cioè la visione di 3D, cioè la visione 3D è l'abilità più alta della visione che possiamo raggiungere, cioè quando la perfezione dei due occhi, la colorazione è perfetta, abbiamo una visione di 3D. E adulti sanno tutti quel libretto che si vede alla patente dove gli oggetti vengono verso di noi quando li guardiamo. Questo è un test di 3D. Allora, infatti è così che anche quando riusciamo a vedere i 10 decimi, ci sono bambini o anche adulti che hanno comunque la difficoltà di accomodare, cioè l'accomodazione non funziona bene o la convergenza non funziona bene, o hanno delle difficoltà di muovere gli occhi, la motricità oculare. Per cui anche se vanno a fare un controllo visivo dall'oculista, per esempio, gli dice vede 10 decimi e lei è a posto. Però lo stesso il bambino magari a scuola non riesce a funzionare. E lì, e questo è infatti il compito poi mio, di dargli una mano a migliorare la sua accomodazione o la convergenza o la motilità oculare. O tutti e tre. Allora qua adesso abbiamo un disegno dell'accomodazione, così che forse capite meglio. Il cristallino sta proprio dietro la nostra pupilla. È una lente che, come abbiamo detto prima, è piatta quando guardiamo da lontano e quando guardiamo da vicino si ingrossisce. Funziona con questo corpo ciliare, è un muscolo, e questo muscolo, come abbiamo detto prima, a 40 anni circa non ha più tanta voglia di lavorare e viene sostituito con l'occhiale da lettura. E come abbiamo già detto prima, il bambino all'età, solo a 3 mesi comincia a funzionare bene per esempio l'accomodazione, che prima non funzionava. Come si vede, se l'accomodazione non si funziona bene, la visione da vicino è sfocata. Ma quello noi come adulti lo sappiamo, che dopo una certa età non è più a fuoco. Cos'è invece la convergenza, di cui abbiamo detto che non potrebbe funzionare bene? La convergenza vuol dire che due occhi riescono a guardare insieme lo stesso oggetto. In questo caso gli occhi guardano lontano, in questo caso tutti i due occhi fissano un oggetto che potrebbe essere in questa posizione dove c'è il mio dito. Cioè ho una convergenza degli occhi verso lo stesso oggetto. La convergenza, anche quella all'inizio, quando il bambino nasce, non c'è. Infatti spesso si ha la sensazione che bambini neonati strabizzano. Ed è effettivamente così, perché i due occhi non sono ancora collaboranti perfettamente. Però il momento che il bambino, circa 3 mesi, comincia anche a convergere con le braccia e con le mani, coi piedi, che prendono gli oggetti e se ne portano alla bocca, classico, no, dei bambini, allora cominciano a convergere anche gli occhi, no? Perché prende l'oggetto con le due mani, se lo porta alla bocca e per cui davanti agli occhi, e la stessa cosa anche coi piedi. È come pensare che un bambino fino a quell'età non capisce che ha due parti, che ha una parte destra e sinistra, e solo lì scopre che ne ha due e che le può anche usare insieme. E per cui questa cosa di mettere tutte le cose in bocca all'inizio è importante per a imparare questo gesto prima, e poi all'inizio non vedono bene, per cui cosa usano di più è il tatto e il gusto, cioè prendere in mano e capire cos'è che ho in mano. E sempre di più, quando la visione poi comincia a prendere il suo posto, queste cose non sono più necessarie. La motilità oculare. Per esempio, se noi adesso guardiamo questo disegno, vediamo questi puntini rossi e righe che si vedono, e sono misurate con millisecondi, così si muovono i nostri occhi su un disegno per capire cos'è che vediamo. Cioè non è che noi guardiamo il disegno in una volta, e lo vediamo in tutto in una volta, lo scannerizziamo. Okay? E anche lì, per esempio, si è capito che il bambino all'inizio vede poco e vede sempre di più perché si ha scannerizzato i suoi occhi, i movimenti, e all'inizio erano solo proprio gli occhi, la bocca della mamma, solo queste tre, il triangolo, queste tre cose. E poi sempre di più verso fuori. Quando vede di più comincia a fissare anche cose fuori dalla faccia della mamma. La lettura è un movimento oculare e noi la chiamiamo un movimento oculare stop and go, perché si hanno delle fissazioni, cioè sto fermo, e si hanno delle saccadi, cioè dei movimenti nella lettura. Ok? Qua si vede bene la differenza. Si ha delle fissazioni, che sono i punti blu, che vanno in una parola, magari anche due fissazioni. Poi un buon lettore non lo guarda neanche, ma passa oltre, e i puntini blu sono sempre la fissazione. Quello che sta in mezzo è la saccade, che faccio da un punto all'altro. Ok? Poi ho spesso, ogni tanto, una saccade regressiva, come qua, che torno indietro perché non mi era chiaro qualcosa, e ho anche la sacca di ritorno della nuova riga. Oggigiorno si può mettere degli occhiali particolari e posso misurare o guardare com'è la funzionalità di lettura, gli occhi come si muovono in lettura, per cui si riescono a fare questi disegni. E si hanno visto che a una certa età si possono leggere tot parole a tot velocità per cui confrontare diversi lettori. Questo invece adesso possiamo confrontare la diversità tra un buon lettore, che era questo che abbiamo visto prima, e un cattivo lettore. Il cattivo lettore, che ha dei movimenti oculari scarsi, deve fare molte più fissazioni, molte più regressioni, e spesso quando fa anche deve andare a nuova riga sbaglia direttamente la riga e salta una riga perché non ha un buon movimento oculare. E queste sono abilità che si possono recuperare o migliorare quando ancora non ci sono, quando un bambino va a scuola. I sintomi e i segni generali delle anomalie della visione. Allora, la stenopia, noi ha una parola che raduna un sfocamento, una visione doppia, o spessissimo occhi rossi, occhi che bruciano, quello sono sintomo che qualcosa nella visione non va. Quale delle componenti di cui abbiamo parlato non va, si deve controllare. Potrebbe essere uno o anche più di una. La visione sfocata da vicino, la postura ravvicinata, perché abbiamo detto se mi avvicino molto posso direttamente escludere un occhio, così non ho, mi escludo il problema di avere doppio di sfocare, perché un occhio da solo funziona meglio di due se non sono buoni partner. Poi periodi di annebbiamento della visione da lontano dopo intensa attività da vicino. E questo è un problema della generazione di adesso. Abbiamo in Giappone 90% dei bambini che sono già miopi, cioè non vedono più bene da lontano, perché l'attività che svolgono è soprattutto da vicino. Vivono in case piccole, stanno sempre spesso all'interno, mai fuori, cioè non hanno spazi larghi, e quello che il corpo si adatta a questa situazione di vita vuol dire che l'occhio diventa miope. E la roba sta continuando nella stessa direzione, stiamo andando molto bene, devo dire. Cioè ci sono i bambini sempre più piccoli che diventano miopi, e anche quando non hanno genitori miopi, perché una volta si diceva che la miopia viene ereditata. Invece adesso spesso si vede che non è ereditata, ma è acquisita dal modo di vivere che abbiamo. Eccessivo affaticamento a fine giornata, indipendentemente dall'età del soggetto, cioè gli occhi pesanti dopo tanta attività da vicino. Per cui, come abbiamo detto prima, la postura fa una differenza. Se ho una buona postura col corpo, quando scrivo e leggo, posso avere più energia e leggere più a lungo o scrivere più a lungo. Più mi avvicino, più consumo energia. Io lo spiego ai bambini spesso, quasi tutti hanno adesso il cellulare, per cui gli dico, se tu nel tuo cellulare hai tutte le app aperte, la tua batteria funziona poco. Cioè la consumi tanto, la devi attaccare spesso. Se tu invece usi solo un'app per volta, quella che ti serve, hai una batteria più a lungo. Se tu tieni una buona postura, i tuoi occhi sono più rilassati e riesci a lavorare più a lungo, hai più energie per tante altre cose. Anche spesso perché Quando un bambino impara a leggere, ha l'energia per la lettura, però poi non gli manca l'energia per capire quello che ha letto. Ci sono bambini che hanno il meccanismo di lettura, però quando poi gli chiedi cosa hanno letto, non sanno rispondere, perché hanno speso tutta la loro energia per una buona lettura, ma non li hanno per poi poter dire cosa hanno letto. Per cui la regola per una buona visione e poco spreco di energie è stare con la schiena dritta, avere una corretta distanza tra il libro e il testo che leggiamo, che scriviamo, e come era una volta, i banchi ergonomici non erano una brutta cosa. Perché se voi pensate, se avete in mano un libro o un foglio in piedi, non lo tenete dritto come un tavolo, ma lo tenete storto almeno di 20 gradi. E questa è la posizione naturale di lettura o di postura del corpo, degli occhi rispetto al foglio. Per cui i vecchi tavoli ergonomici non erano così male. Infatti ci sono un po' di scuole che hanno ripreso a usarli. Come ho detto prima, la distanza buona sarebbe, la distanza si chiama di Harmon, e sarebbe dal gomito alla prima falange media. È stato un dottore americano che ha preso 3.000 soldati e li ha tutti testati e ha visto che questa è la distanza in cui sprechiamo minimo energia, cioè la distanza ideale per gli occhi. E il suo nome era Harmon, per cui ha preso il nome di distanza di Harmon. Una cosa che poi per Margherita e per la grafologia era una cosa molto importante era la postura della penna. La penna viene tenuta oggigiorno in tanti modi, ma quella che viene usata di più è quella col pollice in avanti, così. E ovviamente spesso poi non si sa bene se è la cattiva postura della mano, cioè del tenere male la penna, mi fa arrivare a una postura del corpo strana, perché se no non vedo cosa scrivo, per cui devo mettere giù la faccia, o se è l'incontrario o il viceversa. Comunque una delle due comunque non vanno bene, né stare vicini al foglio né tenere la penna in posture strane, perché come una grafologa direbbe, se non tengo bene la penna non ho una buona motricità di scrittura, perché solo queste tre dita riescono a muoversi così bene da poter essere fluidi nella scrittura. Se io tengo una penna così, cioè non, il polso non può girare così bene come queste tre dita messe insieme. Okay? Questi sono i diversi tipi di tenere la penna, al morso, da fumatore, pollice avanti, e quello che secondo me in questo periodo è quello che vince. Io ho anche una mia teoria, ma non so se è vera, perché non ho fatto... Delle ricerche così, ma spesso vengono date le penne in mano a bambini troppo piccoli, cioè già a 2 anni devono star seduti, fermi a disegnare, per esempio. E un bambino di 2 anni non ha ancora motricità fine a tenere bene una penna, perché non ha ancora questa abilità, però gli viene dato in mano proprio così, cioè devi tenere la penna così, e così tenerebbe col pollice avanti perché ha più, cioè lo tiene meglio, lo senti meglio, come noi adulti quando devi tenere un martello, lo tieni così col pollice in avanti perché lo senti bene in mano, no? E invece si dovrebbe dare una mano, una penna a un bambino solo a 4-5 anni e solo lì dirgli adesso così si tiene bene la penna, perché solo lì magari ha questa abilità di riuscire a imparare a tenerla bene. E poi quello che fanno, se imparano così presto, non riescono a gestirsi anche la forza, per cui la scrittura diventa pesante e con molta pressione, che anche lì è un spreco di energia, perché se riesco a essere fluido e do poca pressione diventa tutto meno, con meno spreco di energia. Per imparare bene a tenere la penna ci sono questi, non so se li conoscete, sono dei triangoli che si possono infilare nelle matite, o addirittura ci sono già delle penne a triangolo che fanno imparare bene ai bambini a tenere la penna con le tre punte. Esistono in qualsiasi libreria, penso, da comprare. Sì, sì, entrambi vanno bene. Entrambi vanno bene. Queste sono le matite triangolari, o se no ci sono queste portapenne che si infilano in qualsiasi penna, dove si può poi appoggiare bene e tenerlo bene. Qua sono state fatte nel 2010 delle ricerche per diverse impennature, e quelle, come avevo detto, impennatura corretta 51, pollice in avanti e il resto della fetta quasi. Cioè, solo queste poche si dividono sulle altre, ma il 45% sta col pollice in avanti. Qua non c'è niente. Ah, ok, avrei finito. Se ci sono delle domande, ben volentieri rispondo alle vostre domande, se ce ne sono. La collaborazione forse che io e Margherita poi abbiamo avuto in tutti questi 30 anni, che è il titolo del libro, è che lei assisteva i bambini con la scrittura, cioè leggeva la loro scrittura e capiva dalla scrittura delle difficoltà che il bambino ha. E noi, io e mio papà, gli abbiamo insegnato come usare un attrezzo che si chiama bioptere, dove si possono fare dei test visivi veloci anche a una persona che non è competente del mestiere, e gli abbiamo insegnato a usarlo, così lei capiva, facendo questo test, se il problema, il disagio che aveva il bambino a scuola era dovuto dagli occhi. Se era così, veniva mandato da noi, io facevo un ciclo di training visivo dove aiutavo il bambino a riavere le abilità che non ha appreso, cioè di accomodazione, di convergenza o di motricità, e poi lui a scuola o lei, il bambino, poteva funzionare meglio, cioè arrivava a un ritmo che poteva stare anche con gli altri o migliorare. Nel libro ho descritto proprio il primo bambino che ha fatto training visivo con me, che è stata un'esperienza molto forte, perché la mamma, dopo 3-4 mesi che abbiamo fatto il training, sono state le vacanze estive, e la mamma è tornata, sono tornati dal mare, e la mamma ha detto, è rimasta scioccata perché il figlio al mare, invece di giocare in spiaggia, si è messo a leggere un libro, perché per lei era una cosa fuori dal mondo, perché a casa non ne voleva mai sapere. Però per far capire se ho le abilità, allora una cosa fa anche piacere. Un bambino però, una bambina, non può dire faccio fatica a leggere per quello che non mi piace. Lo dobbiamo fare tutti, viene insegnato che si deve fare, però spiegare a un adulto che guarda, vedo le lettere sfocate, o mi sembra che si sdoppiano ogni tanto, o scappano, cioè non stanno ferme, è difficilmente che un bambino te lo può spiegare, no? Dice solo una cosa che non mi piace fare, faccio fatica, evito di farla, cerco di non farla. E così sono stati 30 anni di collaborazione con la Margherita, e abbiamo aiutato un sacco di bambini, e quello è stato sempre il suo scopo e anche un po' il mio, anche perché la mia storia è molto simile, cioè io ho fatto tanta fatica a scuola, sono una persona dislessica, e per cui nei miei anni la dislessia non era ancora capita, non si sapeva cos'è, e per cui è abbastanza frustrante il periodo scolastico, finché non sono arrivata alle superiori, dove con la maturità e anche la possibilità di ho deciso di fare una scuola superiore dalla scuola tedesca alla scuola italiana, e giù a Verona hanno detto poretta è tedesca, non capisce, e non hanno chiuso solo due occhi ma ne hanno chiusi quattro, e sono stata valutata un po' come vengono valutati oggi i bambini a scuola, cioè del mio sapere e non della mia scrittura di ortografia e di lettura, cioè il mio sapere veniva valutato, e quello ovviamente faceva poi la differenza, perché non è che i dislessici sono stupidi, cioè sono, anzi di solito sono persone molto intelligenti che non riescono ad avere comunque l'abilità di scrittura o di lettura, o di entrambi. Prego. Sì. Sì. Questi occhiali funzionano nel momento che li ho addosso, nel senso che se noi tutti adesso lo proviamo e fate un piccolo buco attraverso il quale voi guardate, riuscite a mettere più a fuoco qualcosa, perché più concentrato di luce viene all'interno del nostro occhio, meglio vediamo. Okay? Quando si guarda attraverso quei fiorellini, alla fine si guarda attraverso uno o massimo due fiorellini, perché la pupilla, se si ragiona, è piccola quanto il foro e va dentro solo concentrato quel raggio di luce e quello ci fa vedere bene e funziona forse ancora 2, 3, 5 minuti dopo che ho tolto l'occhiale, ma dopo non funziona più. Ma anche se lo faccio costantemente, dura quell'attimo dopo e basta. Cioè non ti dura nel tempo. Cioè è un training visivo, quello che propongo io è capire dove sono quali sono le mie abilità, dove ho le mancanze e aiutare a intensivare le mancanze. No? Di solito chi usa questi occhiali è un miope e ovviamente vede meglio dopo che li ha tolti quando ha visto attraverso un foro piccolo in fiera, li ho visti diverse volte venderli. E ovviamente quando lo provi lì e dici, oh sì, ci vedo meglio, ma dura quel momento lì. No, no. Io lo uso, questo stesso strumento, per capire se sono arrivato al massimo del visus di 10 decimi con la correzione che ho trovato. Se metto davanti questi forellini e vedo che la persona riesce ancora a vedere meglio, vuol dire che non ho ancora trovato la lente giusta. Cioè c'è ancora range di miglioramento. Ecco, adesso la parte di grafologia in sostituzione della Margherita. C'è Yasmin e vorrebbe leggervi, riesce a vedere abbastanza? O se no, no, se no accendiamo la luce. Sì. E vi porta dei pezzi del libro, perché ovviamente non è grafologa, non è del mestiere, però voleva dare una mano a Margherita e per cui è qua e vi legge delle cose della parte del libro. Esatto. Quindi chiedo scusa in anticipo. Allora, l'introduzione di questo libro. Questo libro, realizzato con la collaborazione di esperti, è dedicato ai genitori, agli insegnanti, agli educatori e ai giovani. Nell'opera, Margherita ha cercato di illustrare in modo il più sintetico possibile l'esperienza di 30 anni di lavoro di optometria con la signora Eli. Ecco, e di grafologia, per chiarire e risolvere problemi connessi alla difficoltà di apprendimento utilizzando le conoscenze emerse dalle recenti ricerche della neuroscienza. Quando ha iniziato a collaborare in qualità di grafologa alle prime ricerche dell'Istituto di Ricerca per l'Età Evolutiva dell'Università degli Studi di Urbino, le scritture dei bambini raramente presentavano segni d'ansia. I segnali d'ansia apparivano durante gli anni dell'adolescenza ed erano per loro più transitori, sempre attribuiti alla fase puberale. Nel corso del suo lavoro, della signora Zerbi, li ha visti comparire in età sempre più precoce e diventare via via più frequenti. Ha constatato che si andavano moltiplicando le scritture di bambini che lasciavano trapelare stati di grave disagio. Durante l'adolescenza, poi, le scritture perdevano gradualmente ordine, chiarezza e fluidità. Ora si scrive più facilmente in stampatello, con lettere staccate, tracciate con forte tensione, con andamento assiale ripiegato a sinistra. Tutte indicazioni che rivelano importanti trasformazioni psicologiche e nel carattere. Poi avrei il piacere di leggere un'altra scrittura della signora Zerbi, sempre. La scrittura a mano come patrimonio dell'umanità. Lei ci tiene, ecco, è un suo pensiero. Non... Vorrebbe che la scrittura, ecco, divesse un patrimonio dell'umanità, cioè la scrittura a mano divesse un patrimonio dell'umanità, sì. Esatto, scusa. Niente. L'obiettivo dell'Istituto Grafologo Internazionale Girolamo Moretti è quello di salvare dal disuso la scrittura manuale, perché fa bene al cervello, aiuta a elaborare i concetti ed ancora prima è un diritto fondamentale da preservare e da far riconoscere come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Scrivere a mano è uno dei comportamenti più complessi ed educarlo significa promuovere una formazione armonica. La scrittura evidenzia lo stile personale con cui i valori vengono introiettati ed esprime l'unicità chi la segue. Inoltre è necessario per memorizzare e organizzare i pensieri, le emozioni e le convenzioni personali. La scrittura aiuta a focalizzare meglio sui propri obiettivi, a chiarirsi le idee circa il proprio futuro, ad avere chiari i propri problemi e ad individuare la strada migliore per uscirne. Quindi, quale migliore occasione quella di proclamare la scrittura a mano come patrimonio dell'umanità? Proprio per richiamare l'attenzione sull'importanza dell'armonia del comportamento grafico che esprime la bellezza unica ed esclusiva della persona che sta bene con se stessa, con gli altri e con l'universo intero. Grazie. Ecco, se ci sono altre domande o siamo ben qua, o io quello che posso. Sì, prego. Dello schermo difficilmente ha la stessa. Esatto, per cui da quando io lavoro come ottica non c'è più solo l'occhiale da lettura, ma c'è l'occhiale da PC, cioè o da computer, perché l'occhiale da lettura viene calcolato per 40 centimetri, invece un PC, se è un PC, sta a 60-80 centimetri. Se è un laptop, cioè un portatile, allora è quasi come il libro, quasi, e sta più vicino. Pensa, fanno differenza di potere, e più forte diventa l'occhiale da lettura, più incide. Cioè, con un più uno, un occhiale più uno, la messa a fuoco della lente ha, non so adesso di misura precisa, ma avrà 25 centimetri di messa a fuoco. Cioè, ho 25 centimetri di gioco di poter andare avanti e indietro. Se ho un più 3,50, un 3, non c'ho più questo gioco. Allora devo stare a quella distanza per vedere bene a fuoco. Per cui il suo occhiale da lettura dovrà essere fatto per il PC. O ha un altro occhiale per leggere, per esempio, a letto, perché a letto spesso non leggiamo a 40 centimetri. Lì le persone stanno molto più vicine. Infatti, quando io chiedo per cosa serve l'occhiale da lettura, per me è molto importante che le persone mi spiegano queste cose, perché mi è già successo che ho fatto un occhiale da lettura e poi torno e dico: no, non ci vedo. Ma dov'è che non ci vede? E quando leggo a letto, ha detto: non me l'ha detto che questo diventerà l'occhiale da lettura per letto. Eh sì, ma abbiamo bisogno anche di più paia di scarpe, non usiamo solo la scarpa della domenica o dello sport, abbiamo per ogni attività una scarpa per correre, per andare a sciare, per andare in bicicletta. Lei riesce a misurare queste differenze? Eh sì, certo, si riesce a misurare. Va bene. Beh, volentieri. Ben volentieri. Altre domande? Allora, per noi sarebbe terminato. Quello che posso anticiparvi è che la signora Margherita Zerbi è riuscita a ristampare il suo manuale di grafologia. Non è ancora in libreria, è un'esclusiva di stasera, così fresco è arrivato settimana scorsa. E penso che per lei è stata una delle gioie più grandi riuscire a rifare questo progetto. È stato praticamente la quinta ristampa, perché è già stato fatto, ristampato diverse volte, e questa con un'alta casa editrice, per cui è la prima stampa, perché è una casa editrice nuova, perché quella vecchia non esisteva più, e penso che con 97 anni ristampare un libro è un bel progetto. Si può casomai 20 euro acquistare qua, chi ha interesse. L'altro libro è un'offerta, o comunque si può prendere, non è un libro che viene venduto, dove c'è dentro la mia parte e anche la sua parte. Chi ha interesse di prenderlo può prendere. Ecco, questo è tutto. Grazie, grazie a voi di essere venuti e dell'interesse.